vieni qui. Sì. Il sole che sbatte, spacca le pietre. Il sole che scotta, spezza le pietre. Sono le sette, e ho tanta sete. Voglio l'acqua e un po' di riposo. E poi mieterò il grano. Fischia la falce, riflette il sole. Immenso il campo, non sono solo. Io con amore scelgo la terra. Lei è la sposa ed io il suo sposo. Per lei mieterò il grano con la mia mano, sì, per coltivare il mondo. Prendi, taglia, taglia questo grano. Raccogli tutto, stringi nella mano. Cresce il mondo coltivando il grano. Prendi, stringi, stringi. Cresce quel seme che ho messo io. Era gennaio ed aspettavo che questa valle brillasse d'oro. Per poi mietere il grano con la mia mano, sì, per coltivare il mondo. Prendi, taglia, taglia questo grano. Vieni qui.